joget, joget, mari joget, joget, mari joget, joget, mari joget, la la la la la la la la la la la la la. Mari joget, joget, mari joget, joget, mari joget, la la la la la la la la la.